con la collega Ilaria Cucchi e la collega Sandra Zampa abbiamo deciso di fare questa importantissima conferenza per dare voce a un'ingiustizia, perché qui si tratta di 500 persone tra italiani e stranieri che sono state letteralmente gettate su una strada e lasciate sole in una condizione di precarietà assoluta, senza un piano abitativo alternativo. Ed è notizia proprio di questa notte che una famiglia, madre, padre e una bimba di 18 mesi, sono stati ritrovati in macchina al freddo e senza una soluzione. Grazie al cuore di un abitante, i carabinieri, è stata gestita la situazione drammatica, ma altre persone sono su una strada al freddo, al gelo, con bambini. Sono stati poi trattati anziani peggio di pezzi di straccio, sono stati veramente buttati fuori con disumanità, come se vi fosse un progetto di remigrazione, di cacciare tutti gli extracomunitari, perché alla base c'è questo. Qui devono essere verificate le responsabilità sulla gestione degli allarmi, sugli sgomberi, sull'assenza di un piano di ricollocazione, anche perché sono state ignorate le relazioni allarmanti dei vigili del fuoco sulle gravi carenze di sicurezza sulle Tre Torri. Con la collega Ilaria Cucchi abbiamo già presentato un'interrogazione parlamentari per garantire tutela alle famiglie coinvolte, misure straordinarie per gestire gli sgomberi. Adesso andremo avanti, anche perché tutto quello che è avvenuto è una situazione di disumanità assoluta e totale mancanza del rispetto delle persone ed è inaccettabile.